I lavori di domani di Anna Marino. Vi siete mai chiesti come può cambiare nell'era del digitale il marketing? Diventa il network marketing, il business vincente nel mercato futuro, perché è un'attività che si effettua solamente online e che si basa su relazioni umane, caratteristiche fondamentali per le figure professionali di successo dei prossimi 5-10 anni, secondo il World Economic Forum. Inoltre il business che si inserisce meglio all'interno della new economy, detta anche sharing economy, per la sua impostazione fortemente indirizzata alla condivisione del lavoro e dei benefici. Ma c'è una differenza tra usare i social e lavorarci, e ce la spiega Luigi Baccaro, networker o network marketer. Utilizza i social per lavorare, ovviamente, non soltanto per passare il tempo. Certo, assolutamente. Allora, innanzitutto io porto parallelamente due professioni, ovvero mi occupo di network marketing e sono anche un social media manager, ovvero networker, ovvero che sono un incaricato alle vendite per l'azienda leader mondiale nel settore della vendita diretta, mentre social media manager per una società internazionale che si occupa di formazione e motivazione di network marketing. Puoi anche svolgerla da casa questa professione? È possibile anche stare a casa per svolgerla? Sì, assolutamente. Diciamo che il mio punto di vista per quanto riguarda il settore del network marketing è che si tratta realmente di un business, diciamo il business vincente nell'era digitale, ovviamente il mio personale punto di vista, perché è un'attività che non può essere fatta completamente online, ma sicuramente gran parte del lavoro può essere svolto attraverso le nuove tecnologie, attraverso l'online, i social e il digitale. E questo permette quindi alle persone che si occupano di questo settore di poter collaborare, di poter parlare anche con nuovi potenziali collaboratori o clienti attraverso appunto l'utilizzo di videochiamate e quindi lavorando in parte anche da casa. Detti i vantaggi per chi svolge questo lavoro e detto come si svolge questo lavoro, è importante anche capire i vantaggi delle imprese. E i dati che ho trovato all'interno di questo settore sono molto interessanti, perché è un settore che si è basato principalmente grazie al potenziale delle relazioni interpersonali e comunque si è sempre sviluppato offline. In Italia questo settore ha chiuso l'anno 2018 con 544.000 persone che si occupano appunto di network marketing, e stiamo parlando di un fatturato che ha sfiorato i 700 milioni di dollari in Italia, per la precisazione 689 milioni, ma nel mondo sono 118 milioni le persone che si occupano di network marketing, o meglio di vendita diretta, all'interno del quale si colloca il network marketing, e un fatturato, un'industria di 192 miliardi. Questi sono dati interessanti, soprattutto perché secondo il World Economic Forum, che appunto è diciamo l'evento più importante a livello mondiale per quello che riguarda il futuro del lavoro, sono state delineate anche delle caratteristiche che diciamo considerano quelle che possono essere le attività del futuro, legate ovviamente al business digital. Tra queste caratteristiche c'è proprio la relazione umana, perché quello che è sicuro è che comunque non sapremo mai come andrà il futuro, e soprattutto nel mondo del lavoro, ma quello che è certo è che i robot non potranno sostituire le relazioni umane. Quindi in realtà appunto è una professione molto gettonata, e ovviamente essendo gettonata ha anche una buona remunerazione. Quanto guadagni? Qual è la forchetta del tuo guadagno, anche a seconda ovviamente della seniority? Sì, io credo che non riguardi tanto il discorso della seniority. Quello che è importante è capire ovviamente l'impegno, le caratteristiche e chiaramente il volume vendita generato dalla propria rete e anche individualmente. Quindi non è tanto una questione di generazione. E il guadagno, la forchetta varia, può variare da poche centinaia fino a migliaia di euro, e tante persone si avvicinano a questo settore proprio per poter ambire, diciamo, alla libertà economica, quindi creare un'attività che permetta a queste persone di poter avere guadagni continuativi. Certo, ovviamente anche la seniority non è importante, perché tu hai anche, diciamo, una giovane età. Quanti anni hai? 32. E dove ti sei formato, insomma, per arrivare fin qui? Sì, allora io mi sono laureato in marketing e comunicazione con specializzazione in comunicazione d'impresa. Quello che però credo che sia fondamentale, soprattutto in questo momento in cui comunque non si hanno delle certezze su quello che è il futuro del lavoro, è quello di continuare con persistenza a formarsi. Infatti io dedico parte della mia giornata nella continua formazione, sia in ambito social media che in ambito network marketing. E la cosa più importante è quello di poter, visto che comunque sui social ci sono talmente tante informazioni, di poter, diciamo, anche avere la possibilità, in base a quello che è il settore che una persona vorrebbe avviare, di inserirsi all'interno di community dedicate con professionisti. Quindi tu ci hai indicato anche che bisogna fare rete, non fate soltanto rete tra clienti, non fate soltanto rete tra aziende, fate anche rete tra di voi, sì, tra voi appunto network marketers. Ovviamente è anche importante dare un po' di consigli per la formazione della tua figura. Sì. La formazione online si può fare? Assolutamente, assolutamente. Quello che io consiglio sempre è che i social ci hanno dato la possibilità di poter fare delle prove a costo zero. E oggi, come novità, abbiamo anche un'azienda che cerca i lavori più gettonati di domani. Parliamo con Giovanni Farese di Webidoo. Chi cercate voi? Webidoo è una startup innovativa specializzata in digital transformation e digital marketing. Noi offriamo soluzioni digitali all inclusive per aiutare le piccole e medie imprese italiane a competere nel mercato globale. I nostri servizi più venduti sono la creazione di siti web, la gestione delle campagne pubblicitarie su Google e su Facebook e anche la creazione di contenuti per i social network. Prevalentemente cerchiamo alcuni tipi di profili che possano innanzitutto supportare le piccole e medie imprese in quello che è l'importante sfida della digital transformation, quindi dei consulenti digitali, e allo stesso tempo cerchiamo dei web designer che supportino appunto queste imprese nella realizzazione di prodotti tecnologici basati chiaramente sul web, e anche dei SEM e dei SEO specialist che possono aiutare le imprese nella gestione della pubblicità online. Tempi e modalità per aderire a questo vostro appello? Sul sito web www.webidoo.it, nella sezione job, ci sono tutte le open position. Noi siamo costantemente alla ricerca di questi profili perché siamo una startup innovativa che sta crescendo molto velocemente. Ad oggi abbiamo più di 200 persone che collaborano con noi in Italia e quindi le ricerche sono in questa fase molto costanti e frequenti. Perché li cercate? Perché non si trovano? Beh, nel nostro settore tanti ci provocano dicendo: perché non investite nelle intelligenze artificiali che nei prossimi anni sostituiranno quelle che sono appunto il lavoro umano? E l'elemento principale è che i nostri servizi sono basati su un forte fattore creativo che quindi le macchine non riusciranno mai a sostituire, ed essendo comunque lavori, come dicevamo prima, del domani, quindi basati un po' su quella che è la digital transformation nel nostro paese, non è semplicissimo intercettare i talenti giusti. E quindi cerchiamo e continueremo a cercare.